questo passo di cassa è come il mio cuore. Boom, boom. You make me so divine. With me and you we are like a wine. You make me so divine. With me and you we are like a wine. We are like a wine. Ti vorrei dire che sembra strano ma lo so. Tento di spiegarti che saresti tutto ciò che ho. Sempre mia anche quando non ti ho. Per chi ti è al fianco non ti merita. Sempre mia con ogni tuo vizio perfetto. Sempre mia tu che guardi oltre ogni tuo difetto. Tu che sei oro e non solo Chanel. Tu che sei più della ricchezza, che vali più dell'oro di un emirato. Tu che rendi e renderesti la mia vita unica, più di un vestito firmato. Sei più della droga, signorina, più di ogni mia singola rima. Più di contare perché tu conti per me. Essere signore me lo impone uno stemma di famiglia, che vale più di qualche nome che ti ho sentito dire. Noi garanzia, sei l'energia, l'allegria. Sei un vizio perfetto che mi merito. Sono malaticcio ma almeno il mio cuore sa ancora amare. E ce lo potremo insegnare. Abbiamo fango per il mondo e fango ancora avremo da ripulire. Noi che siamo oro senza contare. Siamo qui ma già volo distante. Ti vorrei dire che sembra strano ma lo so. Tento di spiegarti che saresti tutto ciò che ho. Sempre mia anche quando non ti ho. Perché chi ti ha al fianco non ti merita. Sempre mia ogni tuo vizio perfetto. Sempre mia tu che guardi oltre ogni mio difetto. Tu che sei oro e non solo Chanel. Tu che sei più della ricchezza, che vale più dell'oro di un emirato. Te che rendi e renderesti la mia vita unica, più di un vestito firmato. Sei più della droga, signorina. You can make me so divine. With me and you we are like a wine.